azzera le esenzioni IRAP per mini imprese e professionisti. Provincia, il governo torna a premere per l'approvazione della riforma Delrio a Radio 24. Se non sarà varata entro dicembre, si dovrà votare per rinnovare l'80% dei consigli. Cancelliere ancora sotto tiro per la telefonata con la Ligresti e l'intervento sul DAP. Il ministro avrebbe offerto le dimissioni due volte, domani pomeriggio la sua difesa in Parlamento. Polemica sul maxi scivolo per i militari over 50. Secondo una norma varata l'anno scorso, potranno andare in pensione con l'85% della retribuzione e cumulare il reddito da altri lavori. Tra poco a effetto giorno, Domenico Rossi, deputato e vicecapo di Stato Maggiore. Dopo le nuove rivelazioni sulla Terra dei Fuochi, fa discutere la pubblicità della Pomica e dice: i nostri pomodori arrivano solo dal nord. Intervista al direttore generale del consorzio. Primo stop per la Roma, solo un pareggio a Torino. Domenica prossima scontro tra le inseguitrici Juventus e Napoli, mentre il Milan in crisi vede le scintille tra Barbara Berlusconi e Galliani. Che Cozzalone, record storico di incassi, oltre 18 milioni nel primo fine settimana di programmazione. A Brindisi i ladri colgono l'occasione rubando gli incassi. Ed eccoci qua, una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che apriamo con l'economia e con i dati arrivati questa mattina dall'Istat. Un taglio di forbici alle stime del governo per il 2014 che non piace al ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, che da Londra ribatte: abbiamo opinioni leggermente diverse. I dati diffusi questa mattina dall'Istat sulla crescita dell'Italia nel 2014-2013 sono differenti in effetti da quelli contenuti nel documento di economia e finanza. Secondo l'Istituto di Statistica il prodotto interno lordo crescerà dello 0,7% il prossimo anno, dopo una contrazione dell'1,8 alla fine di quest'anno. Il governo invece aveva previsto una recessione dell'1,7 nel 2013 e una crescita dell'1% per il 2014. La differenza modesta è dovuta alle attività del processo di riforma strutturale e alle misure dei rimborsi del debito della pubblica amministrazione, ha detto Fabrizio Saccomanni. Non so in che misura l'Istat stia tenendo conto anche di questi fattori. Sul tema si è espresso anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano. La coperta resterà corta, ha detto alla cerimonia degli onori militari. Intanto peggiora per l'Istat anche il tasso di disoccupazione, a quota 12,1 nel 2013 e 12,4 nel 2014. In questo caso le stime risultano sostanzialmente in linea con quanto previsto dal governo. Infine, nell'anno in corso, secondo gli economisti, la spesa delle famiglie dovrebbe segnare una contrazione del 2,4%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in questo quadro economico resta al centro della discussione politica ovviamente la legge di stabilità. Gli aggiornamenti di oggi, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Settimana determinante per la definizione della legge di stabilità. Obiettivo di governo e maggioranza arrivare a giovedì, giorno di presentazione degli emendamenti al testo uscito da Palazzo Chigi, con un'intesa che modifichi la manovra senza intervenire sui saldi. Di qui i contatti tra tecnici del Tesoro, esecutivo e responsabili economici delle forze di governo. Mercoledì il Presidente del Consiglio Letta incontrerà ufficialmente PD, PDL e Scelta Civica. Tante le caselle della manovra che aspettano di essere completate, che si vada insomma al di là degli annunci, che a fianco di ogni voce siano inserite coperture e destinazione, a partire dalla rimodulazione degli sgravi fiscali per i lavoratori e dalla nuova tassazione sulla casa, e come questa possa coesistere con la tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili. Ma in primo piano restano anche la stabilizzazione del salario di produttività, la proroga dei precari della pubblica amministrazione, il congelamento dei contributi per le partite IVA e il finanziamento della cassa integrazione. Alla legge di stabilità sono legati, lo ricordiamo, anche i rapporti di forza all'interno delle due principali forze politiche di governo. È questo che preoccupa Letta, che la manovra diventi terreno di scontro per le future leadership. E da Roma è tutto. Sulla legge di stabilità si appuntano le critiche dell'ex ministro all'industria, Corrado Passera, intervistato da Giovanni Minoli a Mix 24. Oggi parla anche del suo progetto politico. Si può mettere più soldi in tasca alla gente attraverso, per esempio, il cuneo fiscale, si può pagare più velocemente le imprese per quell'enorme debito scaduto della PA, e poi bisogna rimettere in moto gli investimenti privati e in questo momento direi soprattutto pubblici. Ecco, ma nell'insieme questa qui è una legge che favorisce o deprime lo sviluppo? Beh, non lo aiuta, quindi non lo favorisce. Quando per così tanti anni si va giù, Per mobilitare un'economia grande come quella italiana bisogna mobilitare almeno 200-300 miliardi. 200-300 miliardi? Lei li è in grado di mobilitare 200-300 miliardi? Riparliamo a gennaio? Cioè 200-300 miliardi, a gennaio passera mobilita 200-300 miliardi. Beh, ma dove li prende? E beh, lasciamo un attimo di suspense. Ah, sempre a gennaio. Beh, appuntamento quasi a tutti a gennaio. E Passera parla anche della RAI, dice si deve meritare il canone. Tutti i dettagli li trovate anche sul nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare l'intervista. In tutto questo, a proposito di manovra, c'è un problema che resta sospeso e torniamo a parlare un'altra volta di incertezza fiscale. Si parla dell'IRAP per i professionisti e le mini imprese. A questo è dedicata l'apertura del Sole 24 Ore di oggi. Cristiano Dell'Oste, buongiorno e benvenuto in studio. Ma che cosa succede quindi? Ma succede che la legge di stabilità dell'anno scorso aveva stanziato quasi 700 milioni di euro per iniziare a esonerare un numero crescente di professionisti e di microimprese dal pagamento dell'IRAP. I fondi però, che erano stati già quasi esauriti con una serie di decreti emanati quest'anno che avevano via via sottratto risorse, con il disegno di legge di stabilità per il 2014 vengono completamente azzerati, quindi non ci sono più risorse e resta il problema tutto fiscale di avere una definizione incerta di autonoma organizzazione. Che cos'è l'autonoma organizzazione? È il requisito in mancanza del quale si può fare a meno di pagare l'IRAP. Questa definizione non è scritta in modo chiaro in nessun testo normativo e quindi via via è la Cassazione con le sue pronunce a dire chi deve pagare e chi no. E quindi, Cristiano, brutalmente le mini imprese e i professionisti non sanno se avranno, non sanno ancora e non sanno a quanto ammonteranno queste detrazioni per l'IRAP. Esattamente, al momento non ci sono e soprattutto c'è una situazione di grande incertezza sul chi deve pagare e chi no. Ad esempio, di recente la Cassazione ha detto che l'avvocato che si appoggia allo studio di un collega non ha autonoma organizzazione, quindi non deve pagare l'IRAP. Però l'avvocato che ha avuto questo chiarimento ci ha messo diversi anni per arrivare ad ottenerlo, perché è dovuto arrivare fino in Cassazione. Tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, oggi in edicola. Si parla di risparmi possibili, si torna a parlare del taglio delle province. C'è un DDL depositato alle Camere, in Commissione Affari Costituzionali, va approvato al più presto. Il rischio altrimenti è che si torni a votare per i consigli provinciali. Lo dice il Ministro degli Affari Regionali, Graziano Del Rio, intervistato da Alessandro Milan in 24 Mattino. Ascoltiamolo. Noi abbiamo avuto un impegno della Commissione di un iter accelerato, il Governo ha chiesto l'urgenza per dimostrare appunto che crede in questa riforma che riguarda non solo le province ma anche il sistema delle città metropolitane, una riforma attesa da 30 anni e anche un altro elemento molto importante, il tema del rafforzamento delle unioni dei comuni, cioè comuni piccoli che imparano a lavorare insieme. Quindi abbiamo avuto questo impegno, ci è stato garantito, e ovviamente il Parlamento deve discutere, può discutere, è chiaro che se si arriva oltre quelle date si rischia poi di dover convocare di nuovo i comizi elettorali per le province. Cioè, se non sempre entro la fine dell'anno si rischia di in primavera di rinnovare quanti consigli provinciali? Tanti, credo. Tutti praticamente, tutti. Quindi il problema, cioè tutti, una buona parte, insomma tutti quelli che vanno a scadenza, che sono un 80%, e a questo punto sarebbe veramente, come dire, una beffa, è meglio allora dire che non si vuole fare questa riforma, è legittimo avere opinioni diverse. D'altra parte l'abolizione delle province era nel programma del governo ed è nel programma del governo Letta, come lei sa, perché su questo tema noi abbiamo ottenuto la fiducia dal Parlamento. Altra questione politica in primo piano è quella che riguarda il ministro Anna Maria Cancellieri e la sua telefonata per favorire la liberazione di Giulia Ligresti. In carcere per lo scandalo finanziario che ha investito la famiglia, è liberata perché in precarie condizioni di salute. Gli aggiornamenti. Nessun pentimento e nessun motivo per dimettersi. Anna Maria Cancellieri non molla e si prepara a riferire in Parlamento sulla bufera politica scoppiata dopo il suo interessamento per la scarcerazione di Giulia Ligresti. È malata e poteva morire, è vero che è un'amica di famiglia, ma faccio segnalazioni simili anche per decine di detenuti che non conosco, ripete la guardasigilli, che domani, prima al Senato e poi alla Camera, proverà a chiarire le ragioni di quella telefonata, finita poi fra le intercettazioni dell'inchiesta Fonsai. Il caso ha agita la maggioranza, il PDL difende il ministro, meno compatto appare invece il PD che aspetta di sentire il suo intervento di fronte alle Camere, mentre dall'opposizione il Movimento 5 Stelle annuncia una mozione di sfiducia. L'intervento del ministro Cancellieri non ha inciso sulla decisione del GIP di concedere gli arresti domiciliari a Giulia Ligresti, sostiene intanto il procuratore capo di Torino Caselli, ospite di Mix 24. La concessione degli arresti domiciliari è avvenuta esclusivamente in base a due fatti. Primo, le condizioni di salute dell'imputata, accertate con una consulenza tecnica. Il secondo fatto, obiettivo, provato, concreto, sicuro, è la richiesta di patteggiamento da parte dell'imputata. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Viene presentato oggi un dossier sullo spreco di denaro nella ricostruzione dell'Aquila. È il frutto di una lunga e minuziosa indagine il rapporto che l'europarlamentare danese Søren Søndergaard ha anticipato stamattina all'Aquila. Un'indagine sull'impiego dei fondi europei destinati alla ricostruzione scaturita da un precedente rapporto, assai poco lusinghiero per noi, della Corte dei Conti di Lussemburgo, che finora la Commissione di Bruxelles ha svicolato, ma che ora dovrà riconsiderare. Giovedì, Søndergaard, membro della commissione parlamentare che controlla le spese dell'Unione Europea, presenterà il suo rapporto all'Assemblea. I soldi inviati dall'Unione Europea dopo il terremoto non sono stati spesi secondo le regole e la normativa. Questo ha significato meno abitazioni ricostruite e meno persone aiutate. Per di più, quello che è stato fatto è stato pagato troppo. Già secondo lo studio della Corte dei Conti, i prezzi della ricostruzione eccedono il mercato del 158%. Solo il calcestruzzo, precisa il rapporto, è costato 4 milioni in più del previsto. Sotto inchiesta finisce non solo il progetto case, ma anche il MAP per i moduli abitativi provvisori, realizzati, si dice, con materiali generalmente scarsi o addirittura pericolosi. Quindi sotto accusa finiscono anche l'uso disinvolto del subappalto da parte della Protezione Civile e le omissioni di controllo che hanno favorito infiltrazioni della criminalità e delle mafie. Non è di mia competenza fare ipotesi. Certo, mi sono domandato perché molta parte della città non è stata ricostruita. Mi sono domandato perché siano state apportate modifiche legislative che sembrano proprio aver favorito gli interessi delle mafie. E sotto accusa c'è anche la Commissione europea. Nel rapporto chiediamo alla Commissione di fornire informazioni complete su quanto fatto e di investigare sulla situazione. Di questo passo, si minaccia nelle conclusioni, all'Italia potrebbe essere chiesto di restituire la parte dei fondi stanziati non utilizzati correttamente, 350 milioni su 494. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Si è aperto oggi, tra le tensioni in Egitto, il processo all'ex presidente Mohamed Morsi, processo tra l'altro immediatamente rinviato all'8 di gennaio. Ci sono state naturalmente, come era prevedibile, tensioni. Ci colleghiamo con Alberto Negri, che in Egitto ci è stato spesso da inviato, profondo conoscitore del paese. Alberto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, che cosa rappresenta questo processo? Innanzitutto questa è stata la prima apparizione pubblica da quando il presidente Mohamed Morsi fu deposto il 3 luglio dall'intervento dei militari seguito alle grandi manifestazioni di piazza contro i fratelli musulmani. Quindi era la prima volta che Morsi appariva in pubblico, anche se noi non abbiamo immagini. È stato permesso l'ingresso ai giornalisti nella corte che è all'Accademia di Polizia, nello stesso luogo dove c'è in corso da tempo il processo Mubarak, ma nessuno ha potuto fare immagini e le uniche che abbiamo sono quelli della TV di Stato. Morsi ha rifiutato di vestire la divisa degli imputati e non ha riconosciuto l'intimità della Corte, affermando: sono il vostro Presidente, voi non potete giudicarmi. Che cosa significa? Significa che praticamente la contrapposizione tra il regime dei generali egiziani e quello dei fratelli musulmani è destinata a continuare e probabilmente anche a diventare sempre più profonda. Grazie ad Alberto Negri per questo collegamento. Noi adesso passiamo a parlare del campionato di calcio, che vede il primo stop della Roma con un pareggio, comunque in battuta, Juventus e Napoli che vanno ad affrontarsi la settimana prossima, e soprattutto un Milan in crisi con uno scontro interno tra da quel che capiamo, un pezzo della proprietà e la dirigenza. Però Dario Ceccarelli, non è che sia tutto così limpido. Ma no, è molto complicato, perché in realtà lo scontro è tra la figlia di Berlusconi, Barbara, e Galliani. Praticamente è come se Galliani fosse Alfano e Barbara la Santanchè, perché è veramente uno scontro al calor bianco. La cosa curiosa è che la figlia di Berlusconi accusa Galliani di praticamente di fare il Galliani, cioè di cercare di amministrare bene il Milan, nel senso che di risparmiare, e poi gli ha fatto una serie di accuse, tra l'altro appunto quella gli ha detto che il Milan ha sempre la stessa rete di osservatori, si affida sempre agli stessi procuratori, e poi che Galliani non ascolta la proprietà, cioè la famiglia Berlusconi. Allora io posso dire questo, che Galliani a sua difesa gli va detto che in 2 anni ha risparmiato circa 120 milioni di euro, che di questi tempi non sono poco, e che poi nel suo rapporto con Berlusconi gli deve molto, perché quando ci sono gli applausi li prende tutti Berlusconi, quando ci sono le vacche magre e i fischi li prende Galliani, quindi le cose vanno un po' messe nella giusta bilancia, nel giusto peso. Proviamo a ascoltare un po' Galliani. Non faccio nessun commento, quindi il vecchio nessun commento, che non si sbaglia mai. Credo che non si possa misurare un club sul risultato dell'ultima partita o le ultime due, ma vada misurato in un arco temporale un pochino più lungo. Ha parlato il presidente Berlusconi, si conferma la fiducia totale ad Allegri? Ma assolutamente sì, certo. Ecco, questa è una notizia, cioè Galliani ha detto che non è la settimana decisiva per Allegri, ma anche ha detto che se uno perde all'infinito non c'è allenatore che tenga. Quindi chiaramente Allegri, insomma, in queste due partite tra Barcellona e il Chievo si gioca la sua esistenza da allenatore milanista. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Appena battuta dalle agenzie, sono stati tutti assolti gli imputati nel processo per presunte irregolarità nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Tra questi c'è l'ex presidente della Campania, Antonio Bassolino. Alfano dice: la mia idea non è cambiata rispetto alla fine del 2012. Il prossimo candidato premier deve esserci con le primarie. Non consegniamo il partito nelle mani degli estremisti. L'Istat prevede una ripresina per il 2014, inferiore alle stime del governo, e avverte che sarà una ripresa senza lavoro. Tasso di disoccupazione stimato in crescita al 12,4%. La legge di stabilità azzera le esenzioni IRAP per mini imprese e professionisti. Cancelliere ancora sotto tiro per la telefonata con Ligresti e l'intervento sul DAP. Il ministro avrebbe offerto le dimissioni 2 volte. Domani pomeriggio la sua difesa in Parlamento. E noi, in apertura di questa seconda parte, andiamo al voto che ci sarà domani a New York per l'elezione del nuovo sindaco Christian Rocca, che è a capo de il mensile del Sole 24 Ore. Benvenuto. Buongiorno. Che questo mese aveva dedicato la copertina proprio a lui, a questo personaggio. Raccontacelo un po', Christian. Sì, diciamo che tutti i sondaggi lo danno in forte, grande vantaggio e dovrebbe battere facilmente il candidato repubblicano Joe Lotta. È sempre difficile e pericoloso fare dei paragoni tra la politica americana e quella europea, quella italiana in particolare, perché quello è un paese dove la sinistra viene chiamata libera, sono liberali, non hanno conosciuto il comunismo, non hanno conosciuto il fascismo, non hanno conosciuto neanche il socialismo, per cui è sempre un po' difficile paragonare. Però se in qualche modo possiamo inquadrare il personaggio, lui è certamente un candidato di sinistra, è uno che parla un po' alla, come lo scrittore Dickens, di storia di due città, cioè cerca di spiegare ai suoi concittadini che è sbagliato parlare soltanto della New York luccicante, della New York dei ricchi, della New York a misura di miliardario, che negli anni di Bloomberg, diciamo, è stata al centro dell'attenzione, perché c'è anche un'altra New York più povera di persone che faticano con il loro lavoro a stare in una città sempre più ricca, e quindi lui si è molto ha molto parlato di questa seconda città, è considerato quindi un po' populista e per alcuni è il nuovo modello di candidato di sinistra americano. Ascolta Christian, e poi c'è quest'altra questione che a noi che viviamo in pieno la crisi europea fa un po' impressione. l'impressione, no? Questa doppia ascendenza è per metà italiano, per metà tedesco. Sì, lui in realtà suo padre era tedesco, lui ha un altro nome, non si chiama Bill de Blasio, ma a un certo punto ha scelto di prendere il cognome dei genitori della madre, perché è stato che è cresciuto, il padre aveva una difficoltà, diciamo, personali, era un alcolista, poi si è addirittura suicidato, e lui sostanzialmente ha vissuto con la madre e con i familiari della madre, quindi lui è davvero un italiano dentro. Io gli ho parlato qualche giorno fa a New York, quando gli ho portato appunto la copia di Hill, abbiamo parlato in inglese, però ho capito davvero parlandogli che l'Italia è dentro la sua cultura, dentro la sua tradizione, non è una posa, non è soltanto un modo per cercare di avere i voti degli italoamericani, è proprio convinto. Ha chiamato i due figli, uno Dante e l'altra Chiara, e li pronuncia peraltro in italiano, non dice Dante o Chiara, dice Chiara e Dante, e pur avendo una moglie che invece è afroamericana, quindi insomma non voglio dire, poteva benissimo non, invece è proprio legato a questa tradizione, alla famiglia, e quindi sì, insomma è un italoamericano vero. Grazie Cristian Rocca, e poi torneremo naturalmente a raccontarvi questa storia nel momento nel quale ci sarà il voto e appunto l'elezione ormai quasi certa di De Blasio. Grazie Cristian e buona giornata. Noi adesso cambiamo argomento e torniamo a parlare di cose italiane, di questa norma varata nel 2012, ossia l'anno scorso, e voluta da Giampaolo Di Paola, allora ministro del governo Monti, e che riguarda appunto i militari sopra i 50 anni, che secondo questa norma potranno a partire dai 50 avere una sorta di scivolo d'oro che gli consentirà nella sostanza di andare in pensione con l'85% della retribuzione e poter cumulare pensione e reddito. Vogliamo parlare di questo con il reddito da eventuale altro lavoro. Domenico Rossi, deputato di Scelta Civica, o ancora sotto capo di Stato Maggiore. Rossi? Ormai in pensione. Ormai in pensione, ma non a 50 anni però. Non a 50 anni, no. A 62 anni, a tempo corretto. Allora, Rossi, devo dire la verità, che in questa situazione, per come è messo il paese, per i sacrifici che sono stati chiesti, questa norma oggettivamente fa impressione, colpisce molto. Certo, guardi, penso che però dobbiamo inquadrare questa norma nel contesto in cui questa norma è nata, ovvero la riforma di Paola porta le forze armate da 190.000 a 150.000 unità entro il 2024. Si tratta innanzitutto di decidere se dobbiamo arrivare al 2024 a 150.000 unità, oppure questa, come è previsto, perché è previsto dalla legge, esiste l'impossibilità di arrivare al 2024 e si va al 2024. Il personale in eccedenza, che come lei capisce sono circa 40.000 persone, aveva smaltito con gli esodi fisiologici, cioè... Allora no, Domenico Rossi, io la fermo perché abbiamo un evidente problema di collegamento con lei. Allora, io chiedo a Filippo Aureggi se possiamo andare con un certo anticipo in pausa, se siamo sereni da questo punto di vista. Andiamo in pausa in anticipo e poi vediamo di recuperarla subito dopo, perché a me rimane il dubbio, insomma, no? Perché a partire dai 50 anni è veramente tanto, insomma, ecco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. L'Istat prevede una ripresina per il 2014, inferiore alle stime del governo, avverte tasso di disoccupazione in crescita. Alfano propone evitare che Forza Italia vada agli estremisti, prossimo candidato premier con le primarie, replica Fitto, su questo decide Berlusconi. Cancelliere ancora sotto tiro per la telefonata con Ligresti e l'intervento sul DAP, il ministro avrebbe offerto le dimissioni due volte, domani pomeriggio alla sua difesa in Parlamento. Sono stati tutti assolti gli imputati nel processo per presunte irregolarità nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, tra costoro l'ex governatore della Campania Antonio Bassolino. Dopo le nuove rivelazioni sulla terra dei fuochi, fa discutere la pubblicità della Pomì che dice i nostri pomodori arrivano solo dal nord. Intervista tra poco al direttore generale del consorzio. Ma apriamo questa seconda parte con l'intervista che abbiamo lasciato in sospeso poco fa. Abbiamo recuperato la linea con Domenico Rossi, deputato di Scelta Civica, ex sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito. Eccoci di nuovo. Vi ricordiamo, la vicenda è questo scivolo d'oro previsto da una norma del 2012 per i militari italiani, che prevede che possano sostanzialmente andare in pensione, essere esentati dal servizio a partire dai 50 anni, ottenere l'85% della retribuzione e poter cumulare questo con altri redditi. Rossi, allora io capisco, lei ci sta dicendo la necessità di ristrutturare il sistema della difesa e ridurre il personale come previsto dalla riforma di Di Paola, e però ammetterà che il privilegio è forte e grosso, cioè... Indubbiamente dobbiamo ripartire dal discorso del ministro Di Paola, salto quello che ho detto prima, ma il punto principale è questo: per arrivare da 190.000 a 150.000 la legge prevede tre possibilità. La prima possibilità sono i transiti nella pubblica amministrazione e nei ruoli civili della difesa. Se con i transiti nella pubblica amministrazione e nei ruoli civili della difesa già si raggiunge il livello stabilito, gli esodi non si attivano, numero uno. Numero due, gli esodi non sono, come è stato detto e come è stato scritto da vari giornali, per tutto il personale militare, ma unicamente del personale che si trova in quegli enti che subiranno i processi di riorganizzazione, di revisione, di razionalizzazione di strutture e di funzioni. Terzo, questa norma i militari non ce la sono inventata, era una norma che già esisteva in una finanziaria del 2008 che è stata attiva per il personale della pubblica amministrazione dal 2008 al 2010. In sostanza, se vogliamo portare le Forze Armate a 150.000, dopo che sono stati attivati i transiti nella pubblica amministrazione, c'è bisogno di creare delle corsie per far uscire il personale. E altrimenti evidentemente non chiuderemmo questo ciclo al 2024, ma lo chiuderemmo al 2032 senza dare questa possibilità. Era necessaria, adesso dico, posto che uno scivolo a partire dai 50 anni, ripeto, è oggettivamente tanto. Certo, oggettivamente. È oggettivamente tanto. La prima questo cosa le chiedo se pesante, ecco, però volevo dirle se si può, al massimo il 10% del personale militare. Sì, mi scusi Rossi, però le chiedo se secondo lei si può innanzitutto alzare l'età e in secondo luogo la questione del divieto, imporre un divieto di cumulo con altri redditi. Secondo me queste possono essere due osservazioni assolutamente giuste e corrette che in Commissione Difesa potrebbero portare a correggere i decreti legislativi o quantomeno a consigliare al Governo di apportare queste riduzioni rispetto. Lo presenta un emendamento su questo? Posso presentarlo, sicuramente sì, soprattutto mi convince il discorso del cumulo, ritengo che il cumulo non ci debba essere. E quindi presenterà un emendamento su questo? Grazie a Domenico Rossi, deputato di Scelta Civica ed ex sottocapo di Stato Maggiore, per essere stato con noi. Noi adesso vogliamo ritornare, vi ho promesso venerdì, per chi era in ascolto, perché era il primo novembre, che saremmo tornati il più frequentemente possibile sulla vicenda della Terra dei Fuochi, troppo a lungo ignorata anche da noi giornalisti, oggettivamente. Oggi ci torniamo con un caso particolare. Allora, la Terra dei Fuochi che cos'è? È quella zona compresa grossolanamente tra Napoli e Caserta, nella quale nel corso degli anni, dei decenni, sono state sepolti rifiuti tossici dalla camorra, rifiuti tossici in arrivo dalle industrie, anche dalle industrie del nord, e dove naturalmente si verifica una situazione sanitaria molto complicata. Ci sono anche ovviamente degli incrementi dei livelli dei tumori rispetto al restante, a quel che è il resto della popolazione italiana. E poi naturalmente c'è un problema per quanto riguarda il cibo che cresce, cioè gli ortaggi che crescono in queste zone, il modo nel quale vengono nutrite le bufale che poi producono la mozzarella, un problema che naturalmente si andrà ad ampliare nei prossimi giorni. Ha fatto molto discutere a questo proposito l'iniziativa presa da Pomì con una sua pubblicità nei giorni scorsi, che di fatto faceva vedere la mappa da dove vengono i pomodori con i quali viene realizzato questo prodotto, insomma questa nota marca di passate e di prodotti lavorati dal pomodoro, ed erano tutte regioni del nord. Saluto Costantino Vaia, direttore del consorzio Casa Lasco del Pomodoro, che è il proprietario del marchio Pomì. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quanto è legato a tutte le polemiche sulla terra e a quel che succede nella cosiddetta terra dei fuochi questa vostra iniziativa? Ma diciamo che questa reazione ci ha sorpresi, nel senso che non era assolutamente nostra intenzione creare alcun tipo di discriminazione o polemica con questo annuncio. Questo tipo di comunicazione è nato proprio invece con l'intento di essere il più trasparenti possibile. Negli ultimi mesi abbiamo avuto sempre più insistente da parte dei consumatori e soprattutto della grande distribuzione organizzata nazionale e internazionale tutta una serie di richieste relative all'origine di quello che è il nostro prodotto. E quindi il messaggio che abbiamo voluto dare è un messaggio di assoluta trasparenza. Ma la segnalazione che vi arrivava, perché il polso ai consumatori evidentemente ce l'avete, era: diteci che questi prodotti non vengono dal Casertano? No, diciamo che la richiesta, soprattutto per i grandi gruppi, perché il Consorzio Casalasco, oltre ad avere il proprio marchio Pomì, produce per i più importanti brand a livello internazionale, era di avere l'indicazione dell'origine, cosa che il Consorzio Casalasco si è sempre battuto da anni. Noi riteniamo che l'informazione verso il consumatore è doverosa, dopodiché il consumatore ha tutti gli elementi per effettuare la sua scelta d'acquisto, tutto qua. Quindi non c'entra niente, appunto. Ma guardi, la terra dei fuochi perché, sa perché, di vai alla fermo. Sa perché? Perché è difficile crederlo in tutta sincerità che proprio in questo momento nel quale ritorna nella discussione pubblica così forte questo tema, come dire, non sia voluta questa campagna. Ma guardi, se uno si documenta vede che il Consorzio Casalasco già negli anni scorsi, anche attraverso un sistema di tracciabilità diretta alla portata del consumatore, ha sempre cercato di dare evidenza, perché lo riteniamo un valore aggiunto, quello della nostra cooperativa e dei nostri coltivatori. Oggi c'è la terra dei fuochi, ieri c'era la pomarola cinese. Diciamo che il nostro settore negli ultimi anni è sempre stato soggetto a questioni di questo tipo, e quindi un messaggio di trasparenza lo riteniamo assolutamente indispensabile e a favore del consumatore. Grazie a Costantino Vaia, direttore del consorzio Casalasco del Pomodoro, titolare del marchio Pomì, per essere stato con noi. Quindi, insomma, ci sembra di capire nessun intento di riferirsi a quello. Grazie Vaia, buona giornata. Arrivederci. Buona giornata. Allora, noi come sempre riprendiamo, perché c'è stato il No Porcellum Day il 31 ottobre, ma la protesta di Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, che sta facendo lo sciopero della fame per la modifica della legge elettorale, non è finita. Così come non sono finite le persone che insieme a lui, una volta al giorno, fanno questa staffetta del digiuno. Mi pare che sia arrivato, se non erro, Giachetti al 26esimo giorno di sciopero della fame, o forse 25esimo, e ha perso intorno ai 9 chili. Chi abbiamo in linea oggi? Gloria Benincasa da Torino. Mestiere? Mestiere libera professionista. E come mai ha deciso di aderire a questa staffetta del digiuno? Ma ho deciso perché questa legge elettorale in qualche modo limita il mio diritto di poter essere considerata una persona adulta, responsabile, quindi che oltre a potersi fare una famiglia e avere un lavoro è in grado di scegliere anche le persone da cui farsi rappresentare in Parlamento, quindi sostanzialmente voglio avere la responsabilità di poter scegliere e quindi in qualche modo di poter influire sul mio futuro, ecco. Quindi questo è il motivo principale. E poi anche perché Roberto Giachetti è stato in qualche modo lasciato un po' solo in questa battaglia dai suoi compagni parlamentari e dal governo, e quindi secondo me il segnale che è stato importante dare per questa staffetta del No Porcellum era far capire a Roma che in realtà questa non è una battaglia di Roberto Giachetti, ma è una battaglia di molti cittadini, di molte persone che sono stufe della condizione di, tra virgolette, diciamo, persone chiamate al voto ma poi non rispettate dopo. Quindi questo grazie. È quanto. Grazie Gloria Benincasa per essere stata con noi. Torneremo naturalmente nei prossimi giorni a incontrare persone che stanno facendo questo sciopero della fame a staffetta. Ci prendiamo una pausa per la viabilità, ci troviamo tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Per il 2014 l'Istat prevede una ripresa inferiore alle stime del governo. Alfano propone prossimo candidato premier con le primarie, replica Fitto, su questo decide Berlusconi. Cancellieri ancora sotto tiro per la telefonata con Ligresti, l'intervento sul DAP, domani la sua difesa in Parlamento. Assolti gli imputati nel processo per presunte irregolarità nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, tra loro Bassolino. E adesso America 24 con Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. L'arrivo della maratona di New York. Beh, finalmente c'è stata questa maratona nordamericana. L'anno scorso è stato un anno sfortunato, lo ricorderete, prima Boston che non c'è stata per via del tragico attentato e poi New York che è stata cancellata per l'uragano Sandy che ha bloccato, paralizzato la città. E invece quest'anno tutto è andato per il meglio. L'arrivo, il vincitore, ormai lo saprete già, ma lo ripetiamo, Geoffrey Mutai è arrivato, pensate, in 2 ore e 7 minuti, un record, il record per la maratona di New York. Mutai, 32 anni, keniota, ha vinto $100,000, ma il premio più importante lo ha preso Prisca Jepto, che è anche lei una keniota, 29 anni, è la prima delle donne, 2 ore 25 minuti 7 secondi, beh, lei ha incassato $500,000, pensate, $500,000, perché è riuscita a mettere insieme una serie di premi collegati e ha vinto anche il titolo femminile del World Marathon Majors, perché ha vinto sia Tokyo che Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York, quindi direi una maratoneta straordinaria. Però in questa grande maratona di New York ce n'è stata una che, devo dire, ha colpito, io ve ne ho parlato nel corso dell'anno, e cioè la maratona dei ragazzi di San Petrignano. È una maratona che ha colpito perché, pensate, il New York Times ha dedicato un lungo articolo, un richiamo di prima pagina, e la BBC ha voluto intervistarli, insomma, sono diventati un po' i protagonisti di questa maratona, i protagonisti on the side di questa maratona, lo sono naturalmente soprattutto per noi che sono italiani. 11 ragazzi che sono venuti a correre, l'hanno finita tutti, pensate, questa maratona, sono ex tossicodipendenti che a San Patrignano hanno ritrovato la loro strada. C'era Gabriele Rosa, l'allenatore, ma un allenatore molto speciale, perché pensate che Gabriele Rosa è l'allenatore di Prisca Jepto, quella che ha vinto, quella che ha portato a casa, come vi dicevo, $500,000. E allora ho una sorpresa per voi, perché questi ragazzi sono venuti da noi qui in studio da America 24 e sono stati molto in silenzio, però sono tutti qui pronti a raccontarci della loro avventura. Vorrei cominciare con Raffaella Poletti. Raffaella, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Raffaella, beh, com'è andata? Beh, direi bene, la mia prima maratona è stata dura ma emozionante. Ho pianto dall'inizio alla fine perché non mi aspettavo un'emozione così, uno spettacolo unico. Il tuo tempo, Raffaella? 4 ore e mezza. Andrea, di dove sei tu? Toscano. Andrea Grossi, giusto? Certo, giusto. Tempo? 3 ore e 11. Dimmi com'è stato tutto il percorso, se devi farci una sintesi di come siete partiti, quando siete partiti con questa idea e essere qui ieri a questa maratona a New York e arrivare, cosa ci racconti? Una bella emozione, intanto per il tifo che è uno spettacolo, ho già fatto una maratona e sinceramente è il tifo migliore che abbia mai visto nella maratona. E è stato molto bello correre in centro a Manhattan con tutti i grattacieli e le persone che ti incitavano. Quando ti hanno detto ma vuoi fare questa maratona, tu cosa pensavi che ce l'avresti fatta? Cosa ti immaginavi, il prima e il dopo? Il prima che era un'emozione bellissima, di chiuderla, quello sì, ce l'avrei fatta, però volevo diminuire il tempo che ci avevo fatto e ce l'ho fatta. Loris Reginato, tu di dove sei Loris? Di Bassano da Grappa. Tempo? 3 ore e 01. 3 ore e 01, ammazza, l'hai battuto, hai fatto meglio di lui allora. Ci ho provato, sì. Senti, allora, com'è stata l'emozione di questa cosa? È stata una gara molto dura, a parte per il pubblico che era eccezionale, quindi si andava avanti per forza d'inerzia. Gli ultimi 5 chilometri quasi ho pensato di non farcela più, però mi sembrava di fare un torto troppo grande al pubblico, quindi sono andato avanti per lui perché era una cosa veramente unica. Abbiamo anche Antonio Boschini, che è stato un po' l'allenatore e insieme a Gabriele Rosa, ma è stato soprattutto quello che li ha seguiti anche dal punto di vista medico. Allora, è stato un successo, mi sembra che ci sono le università americane che sono interessate a questo vostro esperimento, o sbaglio? Questo non lo so se sia ovvio vero, però comunque è stato un successo. L'allenatore Rosa ci ha seguito da vicino e la gente ha preso la cosa con uno spirito molto serio. E io ho passato queste 3 ore e mezzo, 3 ore e 44 per essere precisi, proprio senza mai sentire la fatica, perché correvo tranquillo e volevo arrivare in fondo e guardavo le persone, le facce, davo il 5 a tutte le persone che incontravo per strada e così sono arrivato fino al traguardo senza mai stare male. Ecco, ma abbiamo qui anche il maître à penser di questo evento, e cioè Letizia Moratti. Buongiorno signora Moratti. Buongiorno a tutti voi. Allora, ma il tifo com'è stato ieri? Lei come l'ha vissuta sta cosa? Perché è un po' che la prepara. Sì, è stato bellissimo perché da quando Gabriele Rosa ci ha presentato l'idea e da quando hanno iniziato ad allenarsi tutti i ragazzi, vederli ieri, devo dire che ero veramente emozionata perché penso che sia stato molto bello per loro e penso che attraverso questa esperienza San Patrignano ha fatto vedere che la volontà, la tenacia, la determinazione, l'impegno danno risultati, li danno nella maratona come li danno nella vita, come li danno nel percorso di chi ha scelto di recuperarsi dal tunnel della droga. Avrete un grido di battaglia, sì o no? Sì! Allora, e qual è? Merda, merda, merda, merda! Oh my god, come si dice qui. Beh, devo dire, anche la signora Moratti faceva parte del coro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Mandatemi messaggi su Twitter @MarioPlatero ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, maratona, grande giornata a New York e dunque Bruce Springsteen, Born to Run. Da New York è tutto, Simone ti restituisco la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio e poi alle 17 con Focus Economia. Un ringraziamento a Laura Fagin in redazione, Filippo Oreggi in regia, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. A tra poco.